Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio, ben ritrovati. Per concludere la settimana abbiamo scelto un tema con il quale vi intratteniamo spesso e volentieri. D'altronde la crescita di questo fenomeno nel nostro paese ci ha imposto di proporlo alla vostra attenzione spesso e volentieri. E dopo anni di crescita tumultuosa almeno secondo gli standard a cui nel nostro paese eravamo abituati, il settore del credito al consumo, quindi parliamo di prestiti, ha cominciato ad arrancare. Non si vendono più molte auto o molto arredamento per le famiglie, dunque il credito finalizzato è probabilmente il settore un po' più in difficoltà in questo momento, mentre le famiglie, per far fronte al calo dei redditi, allo stipendio che non arriva più da nessuna parte, al costo della vita che comunque rimane quello che è, alla crisi economica, perché per molte famiglie, lo ricordiamo ancora, la situazione negli ultimi mesi è cambiata, ci sono persone in cassa integrazione, ci sono persone in mobilità e quindi le entrate sono drasticamente diminuite. E allora che cosa succede a queste famiglie che si indebitano con la cessione del quinto dello stipendio o della pensione? Sono due rami che stanno vivendo invece un vero e proprio boom. Partendo da questo dato di fatto e di cronaca, noi oggi cercheremo di rifare un po' un punto su che cosa deve fare chi intende accendere un prestito, quali sono le regole che lo tutelano, e il tema dei prestiti peraltro è anche la storia di copertina di domani di Plus 24 del Sole 24 Ore. Infatti non a caso noi oggi abbiamo invitato Nicola Borzi, collega di Plus, bentornato. Grazie Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro, dobbiamo ricordarlo, è anche autore del libro uscito da pochissimo, Mutui e Prestiti, edito dalle Sole 24 Ore da Giunti Editore, e noi ve lo avevamo già citato questo libro, ve lo avevamo già segnalato in occasione dell'uscita della presentazione a Salva Danaio dell'altro libro uscito nell'ambito della stessa collana, Obiettivo Risparmio, era il libro sul bilancio familiare di Giuseppe Altamore. C'è invece anche Mutui e Prestiti di Nicola, e per farci aiutare anche ad orientarci invece nel panorama dell'offerta di prestiti e anche mutui, non vorrei toccare questo tema perché non appena accendiamo il riflettore su questa parola qua si scatena l'inferno al centralino. Atteniamoci ai prestiti di minore entità con Roberto Anedda, direttore marketing di Prestiti Online e Mutui Online. Roberto, bentornato. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. È inutile che vi sto a ricordare il numero verde per intervenire per le vostre domande, ma io lo faccio perché magari qualcuno insomma non ha la prontezza mentale di ricordarlo. 800 24 00 24, potete utilizzare il numero verde per i vostri interventi, per interagire con noi, ma lo potete fare anche al 349 238 6666. Se siete dei timidi, utilizzate pure la modalità SMS. La borsa, stamattina la borsa è debole, siamo reduci da una giornata che è stata di nuovo positiva, peraltro per un fattore curioso, l'aumento del prezzo del petrolio, perché secondo l'AIE, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, il 2009 si concluderà con un aumento complessivo, con un ritorno all'aumento della domanda di greggio, e questo viene visto un po' come un segnale di superamento della fase peggiore della crisi economica. Non tutti sono concordi a dare questa interpretazione, ma in ogni caso il petrolio, sulla scia di questa indicazione fornita ieri dall'AIE, è tornato a crescere ed è balzato a $73 al barile a New York, scendendo appena leggermente stamattina nel corso delle contrattazioni in Asia, siamo a $72 in media. E diciamo che questo fattore non turba più di tanto la borsa, perché stamattina scendeva leggermente in Europa per le inevitabili prese di profitto dopo i rialzi di ieri, ma adesso vedo di nuovo qualche segnale di cambiamento, perché Parigi in realtà sta tentando di superare la parità, è positiva per lo 0,02%, appena negativa Francoforte, meno 0,3%, Londra meno 0,2%, un po' più sofferente invece la seduta di Piazza Affari. FTSE MIB meno 0,74% in questo momento, quindi anche i rialzi di 4 punti di Bulgari e Pirelli non riescono a determinare un andamento migliore per Milano. Questi due titoli hanno ricevuto due promozioni di giudizio da parte di due case di investimento. A Bulgari è stato assegnato un buy, un giudizio comprare da parte di Goldman Sachs, mentre Pirelli ha ricevuto la promozione da parte di Deutsche Bank. A distanza segue il rialzo di Impregilo, più un punto, più 0,9% per UbiBanca, più 0,5% per Italcementi, più 0,5% 0,37 per Geox. I cali invece sono sulla Popolare di Milano, meno 2, Mondadori, meno 1,68, Enel sta andando avanti questo aumento di capitale, intorno al quale la reazione del mercato è sempre piuttosto ondivaga, meno 1,5 appunto per il gruppo, Autogrill perde 1,5, la ex Autostrade perde 1,5, meno 1,4 per Campari, e a dispetto dell'andamento del prezzo del petrolio Eni scende dell'1,36%, scende di 1 punto anche Saipem, di 1 punto anche Terna, di 1 punto anche Intesa San Paolo. Euro su dollaro 1,40,36, lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina e ritorniamo ancora ad esplorare il mondo dei prestiti nel nostro paese. La crisi finanziaria c'è, si vede e soprattutto si sente a fine mese, quando le famiglie si ritrovano a dover far quadrare i conti. E così pagare le bollette, le rate del mutuo e fare la spesa di tutti i giorni diventa sempre più difficile. Volantini e annunci pubblicitari propongono una soluzione che sembrerebbe risolvere o comunque facilitare questa situazione. La cessione del quinto dello stipendio, vale a dire un prestito finalizzato il cui rimborso avviene con trattenuta di importo pari alla rata prevista dal piano di ammortamento del prestito. Del resto è la nuova strada battuta soprattutto dagli istituti di credito che erogano più facilmente il prestito perché hanno come garanzia un'entrata fissa, lo stipendio del richiedente. E i numeri parlano chiaro. Anche gli italiani sembrano prediligere questa strada. A fronte di una flessione nel mercato del credito al consumo che si è attestato fino ad aprile 2009 intorno all'11%, nei primi tre mesi del 2009 c'è stata invece una crescita boom della cessione del quinto. L'osservatorio Assofin ha infatti rilevato un aumento del 25%. Ma l'altra faccia della medaglia è rappresentata dall'incidenza dei tassi applicati sui prestiti. Ad aumentare, appunto, oltre alle richieste, sono anche i tassi applicati ai finanziamenti. Rispetto a marzo 2007, infatti, il TAEG, cioè il tasso di interesse complessivo applicato ad un finanziamento, è aumentato in media del 19%. Ebbene, dunque, prestare grande attenzione nel momento in cui viene stipulato il finanziamento. Il più delle volte, infatti, accade che ad essere messo in risalto sia il tasso annuale nominale e non il tasso annuo effettivo globale, che è poi quello che misura il costo reale della cessione del quinto, includendo costi ed oneri per la polizza assicurativa obbligatoria, che a volte incide pesantemente sulla rata mensile. Posso partire? Avete terminato di confrontarvi? Qua non vi dico che spargimento di fogliame nel senso di fogli, non di foglie, che abbiamo sul nostro tavolo. Sì, fogliatura, chiamiamola, ma mi sono inventata un nuovo nome questa mattina. Il tema è interessante, per cui, come dire, i nostri ospiti questa mattina lo vogliono documentare al meglio. E allora io partirei con Nicola Borzi, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, che ha coordinato questa storia di copertina in uscita domani con l'inserto dedicato agli investimenti al risparmio del Sole 24 Ore. Noi, tra l'altro, abbiamo focalizzato la nostra scheda, Nicola, proprio sulla cessione del quinto dello stipendio, perché in relazione alle difficoltà nel mondo del lavoro è chiaro che il primo interlocutore a cui un lavoratore si rivolge oggi, visto che è molto più facile che la banca dica di no, è proprio il lavoratore, che in qualche maniera intermedia questo prestito con la garanzia della busta paga. È forse un po' più facile ottenerlo, ma non è assolutamente il più conveniente. No, non è il più conveniente, è sicuramente, come dire, la strada che le banche percorrono per acquisire clienti e soprattutto per legarli a sé per un periodo di tempo che può andare da qualche mese anche ad alcuni anni. In realtà la cessione del quinto dello stipendio oggi, secondo i tassi di Banca d'Italia, per importi sopra i 5.000 euro costa il 10% circa di interesse annuo globale effettivo, il famoso TAEG, che, ricordiamolo, è l'unico indice che va preso in considerazione per valutare correttamente il costo di un finanziamento. Ma sotto i 5.000 euro viaggia ancora attorno al 15-75%, come tasso medio di mercato. Ovviamente a questi valori bisogna aggiungere un 50% per calcolare la soglia di usura, quindi andiamo attorno al 23% come soglia di usura per i prestiti sotto il 5.000 euro con la cessione del quinto, e arriviamo al 15% circa come tasso annuo per quelli sopra i 5.000 euro. Possono sembrare delle cifre di poco conto, ma noi abbiamo fatto dei calcoli su Plus che uscirà domani e abbiamo visto che per dei finanziamenti anche di importo limitato questo significa rimborsare nel giro di 6 anni delle somme che variano dal 50 anche al 60-70% in più del capitale preso inizialmente a prestito. Tra l'altro poi magari spiegheremo anche la dinamica di questa novità e in vista una riforma del TAEG, perché la Banca d'Italia sta recependo delle direttive europee, allora vedremo appunto se saranno, come dire, delle novità migliorative per la clientela finale, per il destinatario finale di prestiti e finanziamenti. Roberto Anedda, come al solito, prestiti online, così come per i mutui, vara un osservatorio periodico sull'andamento dei prestiti. Ti chiedo se ci sono delle novità relativamente alle macro tendenze, quindi continua ancora ad esserci un freno molto consistente per il finalizzato, un aumento del prestito personale, il boom della cessione del quinto dello stipendio. Qual è oggi la situazione? Sì, come già anticipavo la vostra scheda, le tendenze di lungo termine sono proprio queste. Ormai da diversi anni il finalizzato, che ricordiamolo, è il finanziamento che viene ottenuto tramite il cosiddetto dealer, cioè ad esempio il concessionario dell'auto, il rivenditore dei mobili dal quale si va a fare l'acquisto, il che ovviamente è, è convenzionato con uno o più istituti finanziari e propone il finanziamento. Questi finanziamenti spesso inevitabilmente hanno dei tassi un pochino più elevati rispetto a quelli che ultimamente si può spuntare rivolgendosi direttamente a un istituto. Quindi questa categoria, che fino a pochi anni fa pesava per quasi il 50% degli erogati totali del credito al consumo, si è fortemente ridotta, mentre è cresciuta quelli dei prestiti diretti, cioè i prestiti personali richiesti dai singoli all'istituto oppure tramite un intermediario puramente finanziario. Tant'è vero che gli uni e gli altri ormai si pareggiano nei primi 4 mesi dell'anno, ad esempio. Ognuno di questi due grossi accorpamenti di finanziamenti è valso quasi 7 miliardi di euro. Il finanziamento che cresce di più in assoluto in termini percentuali è effettivamente la cessione, ma non dimentichiamo che la cessione rimane comunque una quota molto limitata del totale del mercato. Parliamo di 1,7 miliardi, quindi comunque un flusso molto più piccolo. Quindi anche quando parliamo di boom è perché comunque si parte da valori assoluti contenuti. Si parte da valori assoluti più contenuti, e soprattutto il boom è di questi ultimi anni, perché in anni recenti la normativa è stata modificata ed è stato permesso in maniera più semplice di accedere a questo tipo di finanziamento anche ai dipendenti di aziende private e poi soprattutto ai pensionati. E infatti negli ultimi anni circa il 30% delle erogazioni sono ai pensionati, quindi erano categorie che prima non potevano accedere a questo tipo di finanziamento. Spesso si tratta anche di categorie con redditi limitati e quindi possono fruire di questo tipo di finanziamento, anche perché magari non potrebbero ottenere un prestito personale normalmente. E il fatto che abbiamo di fronte a noi dei pensionati che quindi hanno ovviamente anche una dimensione reddituale più contenuta rispetto ad un reddito normale da lavoro porta anche a poter avere delle condizioni diverse, migliori in questi prestiti, Nicola. Magari insomma la cessione del quinto della pensione è un po' meno onerosa rispetto a quella tradizionale. Non abbiamo però non ho informazioni al riguardo, e anche Banca d'Italia non distingue tra i due canali diciamo di clientela. Non credo che le condizioni siano migliorative, anzi ritengo che, considerate le caratteristiche demografiche del campione, considerata l'età, considerate quindi anche tutte le questioni attuariali che riguardano l'aspettativa di vita e quant'altro, è più facile che le condizioni siano peggiorative. Roberto, mi confermi? Sì, esatto, questo, confermo quello che dice Nicola, perché come forse in tanti non sanno, il finanziamento tramite cessione del quinto, stipendio, pensione che sia, di per sé per legge, oltre al tasso di interesse che viene applicato, prevede anche, a garanzia del finanziamento, due principali assicurazioni obbligatorie: una sulla aspettativa di vita, quindi un'assicurazione caso morte, e una sull'eventuale perdita del posto di lavoro. Nel caso del pensionato ovviamente l'assicurazione per la perdita del posto di lavoro non c'è, ma c'è quella sulla vita, e dato che si tratta mediamente di persone più avanti in età e quindi con una più elevata vicinanza purtroppo al momento finale, chiamiamolo così, inevitabilmente il costo di queste assicurazioni è superiore, e quindi fa sì che complessivamente il costo sia come minimo equiparabile a quello di un altro dipendente, se non addirittura in determinati casi più gravoso, specialmente se pensiamo a una cessione di chi ha già oltre 70 anni. Tornando al nostro TAEG, Nicola Borzi, ovviamente il costo di queste condizioni accessorie al prestito dovrebbe essere ricompreso all'interno di questo TAEG. Mediamente quanta percentuale rappresentano del costo complessivo del prestito? Perché appunto, soprattutto per la cessione del quinto, abbiamo capito in questi ultimi mesi che sono degli accessori un po' pesanti. Sono degli accessori sicuramente pesanti. Possiamo dare quelli che sono i dati di Banca d'Italia, cioè in realtà Banca d'Italia non rileva il TAEG, ma rileva un indice diverso che si chiama TEG, tasso effettivo globale, che è la media di tutte le operazioni che sono state erogate nel trimestre precedente, che serve come base per il calcolo della soglia di usura del trimestre successivo. Allora possiamo dire che tra gennaio e marzo di quest'anno il tasso più alto si riscontrava proprio nella cessione del quinto per importi sotto i 5.000 euro, era il 15,75, mentre il tasso più basso, il 9,03%, era quello ai crediti personali erogati dal canale bancario, quindi non dalle finanziarie, che era quasi di 6 punti più basso, perché era il 9,03. Quasi di 7 punti più basso. In mezzo c'era tutto un insieme di valori, tra cui invece il credito personale erogato da canali non bancari, quindi dalle finanziarie, che arrivava tranquillamente a 14,08 annuo. Quello che bisogna ricordare comunque è che la Banca d'Italia sta avviando questa riforma del calcolo del TAEG, innanzitutto perché è obbligata dalla direttiva sul credito al consumo europea, che chiede questo ai legislatori nazionali e alle autorità di vigilanza, l'autorità di vigilanza ovviamente Banca d'Italia. Il TAEG verrà riformato per inserire proprio tutte quelle voci di costo che per il momento in qualche modo riuscivano a svicolare rispetto alla definizione del tasso, che dovrebbe invece comprendere tutti i costi, cioè il costo di invio delle comunicazioni periodiche, il costo di la commissione di incasso rata, l'imposta di bollo che costa tipo 15 euro e non è mai assolutamente compresa nel costo complessivo. Tuttavia noi abbiamo anche pubblicato sul prossimo numero di Plus, che uscirà domani, un caso in particolare: un finanziamento da 23.500 euro erogato da un primario istituto bancario nel quarto trimestre del 2007, il calcolo del TAEG secondo il contratto che questa banca ha fatto per l'acquisto di un'auto a un giovane sotto i 30 anni era del 13,5%. Inserendo i dati di questo contratto dentro il portale di Assofin, che ha su internet un sito nel quale si possono calcolare i TAEG per verifica anche del cliente, e questa banca aderisce ad Assofin, il TAEG che usciva dal portale di Assofin era il 16,4. Cosa aveva escluso questa banca dal conteggio? Questo non lo possiamo dire. Quello che possiamo dire è che Assofin stessa smentisce il contratto, dice che il TAEG è superiore di quasi 3 punti percentuali, ma la cosa interessante è che nello stesso periodo la soglia di usura era 15,99%, quindi questo contratto è a mezzo punto oltre il tasso usurario, e in questo caso il cliente potrebbe dire i giudici, per chiedere che il contratto sia annullato. 800 24 00 24, numero verde, ancora vi ricordo, per i vostri interventi. Infatti è lì, Nicola, che volevo arrivare. Nel momento in cui, chiaramente, quando uno fa un acquisto particolarmente impegnativo per la propria famiglia, può essere, ovviamente noi consideriamo quello più emotivamente impegnativo quello della casa, ma anche un'auto, ci si possono spendere anche 15.000, 20.000 euro, non sono esattamente noccioline, e magari lì non siamo nelle condizioni di trattare, di spuntare la condizione migliore, però in un caso come questo lo scopriamo dopo un tot di tempo. Si hanno dei margini per poter comunque contestare un contratto originario? Roberto e Nedda, quali suggerimenti possiamo dare a chi magari, proprio anche prendendo spunto dall'episodio che abbiamo raccontato, arriva un po' a guardare le condizioni contrattuali dei prestiti sottoscritti e si accorge che c'è qualcosa che non quadra? Sì, il caso in essere richiama ciò che più volte abbiamo detto anche in altre puntate, sia sui mutui che sui prestiti. Occorrerebbe, nella fase in cui si va a scegliere, poi ancora prima di firmare, fare tutta una serie di verifiche approfondite, il che vuol dire che poi il cliente deve anche informarsi di qual è il livello di tassi d'usura, capire esattamente che cos'è un TAEG, farselo ben calcolare e verificare se questo sia o meno all'interno di questa soglia. Anche, diciamo, tardivamente rispetto all'erogazione, dato che c'è comunque un dato ufficiale che attesta per iscritto, per contratto, un determinato TAEG e che altrettanto ufficialmente invece i tassi d'usura erano diversi, c'è una prova, appunto la stessa Assofin ha confermato nel caso specifico, di una discrepanza tra quello che doveva essere il limite di legge e quello imposto, quindi si può comunque adire alle opportune vie per ottenere un rimborso, con eventuale anche rimborso di interessi per quello pagato in più. Benissimo. Sì, Nicola, devo andare in pausa a sentire le anticipazioni del GR Extra Large. Voglio anche salutare Renato da Milano. Renato. Buongiorno. Mettiamoci tutti le cuffie, tutti pronti a ripartire con Salvadanaio. Oggi di nuovo sui prestiti delle famiglie italiane, un fenomeno che abbiamo monitorato molto attentamente negli ultimi anni, perché le famiglie italiane hanno imparato ad indebitarsi sempre di più. Adesso però abbiamo una tendenza diversa, che è quella di abbandonare il prestito finalizzato, che è quello che veniva sottoscritto generalmente, viene sottoscritto per l'acquisto dell'auto piuttosto che dell'elettrodomestico, piuttosto che del nuovo arredamento della casa, a favore di prestiti personali e a favore di cessione del quinto quinto dello stipendio. Allora monitoriamo queste nuove tendenze, ma soprattutto stamattina, come spesso facciamo, cerchiamo di darvi tutte quelle indicazioni utili per sottoscrivere consapevolmente un prestito, cercare di individuare anche quei fattori che poi possono tramutarsi in sorprese, cioè magari partire da un tasso basso ci sembra e poi invece scoprire che i tassi praticati intorno a questi finanziamenti sono molto più onerosi rispetto a quanto non ci abbiano spiegato per esempio in banca o alla finanziaria alla quale ci rivolgiamo. Nicola Borzi e Roberto Anetta con noi. Nicola è collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, autore anche del libro Mutui e Prestiti. Dove lo compriamo, Nicola? In edicola, lo dobbiamo chiedere? Io credo che lo si trovi in libreria. E Roberto Anetta, direttore marketing di Prestiti Online. Renato ci sta aspettando da tantissimo, benvenuto. Buongiorno a tutti. Io volevo appunto dire che ho chiesto un prestito ultimamente, un piccolo prestito personale, sì, 2.000-3.000 euro, una cosa proprio esigua. Beh, è un mese che mi fanno andare avanti e indietro, che mi fanno fare 2.000 telefonate, al di là poi del tag, del tasso, sì, che vabbè, è altissimo. Io tempo fa ho avuto un prestito da un'altra finanziaria che ho pagato, ho finito di pagare qualche mese fa. E questa stessa finanziaria, che non esiste più, non capisco perché, ha fatto un mare di pubblicità e mi ha mandato due inviti addirittura, rispettivamente dopo un mese uno dall'altro, insomma, dove mi davano ancora 3.000 euro senza produrre nessuna documentazione, in 48 ore, 24 ore. Adesso invece, per avere a causa della crisi chiaramente, e per avere un piccolo prestito mi hanno fatto impazzire e a tutt'oggi sì, stiamo, come dire, passare da un incesto ad un altro, no? Posso. Cioè, addirittura io, essendo dipendente di un'azienda che ha dichiarato che siamo 12 dipendenti, non avrei diritto a alla cessione del quinto? No, non c'entra niente. Renato, comunque, quindi insomma lei è un po' in difficoltà adesso, gli facciamo fare intanto magari un preventivo su Prestiti Online, Roberto, vediamo se magari a Renato ha le condizioni, ma Renato, no, mi scusi, adesso a parte tutto quanto, le dicono di no per quale motivo? Perché lei non ha le condizioni di garanzia per poter, secondo la banca lei guardi, non ha garanzie sufficienti per poterlo restituire, qual è il problema le pongono? Secondo me uno per avere un prestito non dovrebbe avere bisogno di soldi, cioè dovrebbe avere un conto in banca, sì, secondo loro. Guardi, io lo dico così con ironia, perché se uno chiede un piccolo prestito perché momentaneamente si trova in una situazione insomma delicata. No, io lavoro e ho documentato tutto, cioè non capisco cos'altro cerchino e cos'altro. Ma si è rivolto solo ad una banca, Renato, farsi un giro magari le varie finanziarie che poi fanno un mare di pubblicità che non le dico, prestiti a novantenni purché abbiano la dentiera d'oro, cioè guardi una cosa, io adesso lo sto buttando sul drammatizziamo un po', però ho detto anche questo. Renato, la ringrazio, vediamo un po' cosa si può suggerire ad una persona che ha le porte chiuse ripetutamente, abitudine alla quale purtroppo ci stanno abituando le banche da qualche tempo a questa parte. E tra l'altro non ci sono solo le famiglie a sentirsi rispondere di no, qua la questione grave nel nostro paese in questo momento è che ci sono i piccoli imprenditori che non riescono a mandare avanti la propria attività, devono bloccare i propri investimenti, devono bloccare la produzione, non rispettare anche le consegne alla clientela, proprio perché ci sono delle chiusure radicali e nette in questo momento, a dispetto di quello che l'ABI e che il sistema bancario sta dicendo. In realtà lo sportello avviene ben altro, e qua lo possiamo documentare molto, molto chiaramente, come stanno facendo tutti i giornali in questo periodo. Detto questo, Roberto Anetta, cosa diciamo a Renato? Sì, sicuramente poi bisognerebbe entrare nel dettaglio della posizione per vedere quali sono le valutazioni dell'istituto, che si basa inevitabilmente sul reddito, il lavoro che viene effettuato, eccetera. Purtroppo, soprattutto in questa fase, ci possono essere più istituti particolarmente rigidi, anche per cifre molto limitate. Tra l'altro le cifre molto limitate sono quelle che paradossalmente sono considerate più rischiose come tipo di prestito dalle banche, tant'è vero che per finanziamenti fino a 5.000 euro i tassi medi Ma perché per importi così piccoli i tassi sono doppi? Perché se un po' riprendendo quello che diceva anche Renato, se uno ha bisogno di una cifra, anche piccola, è perché magari si può trovare in difficoltà. Quindi senza dare ovviamente colpa a chi ne ha necessità, la banca fa questo ragionamento, dice: se una persona è in difficoltà vuol dire che magari poi potrebbe non rimborsarmi il prestito. Paradossalmente uno che chiede anche 20 o 30 mila euro per acquistarsi l'auto, che è un bene ben identificato eccetera, anche se poi la banca ovviamente non si rivale sull'auto, se ci sono i limiti di reddito, che ci devono comunque essere, è un prestito che può essere concesso molto più facilmente rispetto a una pura liquidità, perché la liquidità poi non si capisce mai bene perché cosa possa essere utilizzata, e quindi è sempre vista come indicativa di una situazione di maggiore difficoltà del cliente, difficoltà che, ripeto, potenzialmente da parte dell'istituto potrebbe tradursi in un mancato rimborso del finanziamento. In più, in una situazione di maggiore crisi come quella attuale, ci sono diversi istituti che possono essere più restrittivi. In particolare, poi Renato accennava con le pubblicità sin troppo promettenti, quello è già un segnale che bisognerebbe diffidare e lasciar perdere qualunque di quegli istituti, perché sono quelli che approfittano proprio anche delle situazioni di difficoltà dei singoli, promettono mari e monti e poi in realtà dietro ci sono commissioni, costi aggiuntivi, lungaggini, spesso non sono neanche loro direttamente a erogare i prestiti, ma sono altre finanziarie che stanno dietro, ma solo per l'entrare in quel giro si finisce per sobbarcarsi dei costi veramente superiori alla media. Tutte precauzioni che bisogna adottare e che vengono indicate anche nella lista delle 10 raccomandazioni che Nicola Borsi ha stilato per Plus 24 di domani. Adesso magari le ribadiamo. Ci metto, Nicola, so che volevi aggiungere qualcosa rispetto al ragionamento che stava facendo Roberto Anedda, ma ti metto anche questa domanda. Un ascoltatore che non si firma ci scrive al 349-238-6666, questo mi sembra veramente allucinante. Perché la mia banca per un prestito di 6.000 euro mi chiede la firma di una cambiale in bianco? Perché questi signori dovrebbero essere, come dire, salutati e lasciati al loro destino, cioè bisognerebbe cambiare intermediario. Perché una delle cose che spieghiamo domani su Plus 24 è che in un contratto di credito al consumo o di prestito o di cessione del quinto, se qualcuno richiede come garanzia la firma di cambiali di vario tipo, e quella in bianco penso sia la più assurda di tutte, dovrebbe essere, come dire, salutato vigorosamente e dovrebbe essere abbandonato tranquillamente. Ecco, io volevo soltanto aggiungere un discorso relativo alle garanzie per il cliente. La legge prevede alcune garanzie per il cliente dei contratti di credito, consumo, di prestito o di cessione del quinto. La prima è che nessun costo che è indicato nel contratto può essere richiesto. La seconda è che comunque entro il 15° giorno dalla firma del contratto c'è sempre il diritto di recesso, cioè se io non sono più convinto del contratto che ho firmato, entro il 15° giorno mando una bella raccomandata con ricevuta di ritorno all'intermediario, segnalo la mia disponibilità immediata al rimborso di quanto ho ricevuto e chiedo la rescissione del contratto. E la terza è che esiste comunque la possibilità, in casi estremi come quello del tasso usurario di cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, di chiedere l'intervento dei giudici e di far valere i propri diritti. Anche se, dobbiamo anche ribadire che quando ci troviamo nella condizione di dover chiedere un prestito non è sempre detto che venga chiesto per acquistare l'auto nuova, per andare in vacanza. Molto spesso abbiamo delle condizioni di difficoltà, Nicola, giusto, e forse negoziare anche ed essere particolarmente incisivi nella trattativa non è sempre facile. Sì, però esistono degli intermediari e uno di questi è quello che abbiamo oggi con noi in trasmissione, che consentono ad esempio di comparare le offerte e di cercare la tipologia di offerte che per caratteristiche di prezzo, per piano di rimborso e quant'altro è più adatta. Esistono poi anche degli altri canali. Noi stiamo parlando di operatori finanziari che lavorano sul mercato specializzato, però possiamo ricordarci che in Italia sta prendendo ad esempio piede il microcredito. Esistono anche dei canali. Io non sto assolutamente consigliando i cosiddetti canali alternativi, sia chiaro, cioè vorrei che fosse ben chiaro il messaggio che bisogna fare attenzione a tutti coloro che si presentano come amici, perché molto spesso ci sono delle situazioni grigie dove c'è il rischio fortissimo di incappare nell'usura, però quando ci sono degli intermediari riconosciuti come organizzazioni di microcredito o come organizzazioni di credito tra virgolette sociale, se qualcuno si trova in condizioni tali di difficoltà per cui il canale bancario, il canale finanziario rifiuta il credito, c'è anche questo step, sicuramente, c'è anche questo che step si può, da si prendere in considerazione prima di fare la follia di mettersi nelle mani dei cravattari, perché diciamolo chiaro e tondo, purtroppo spesso c'è gente che non sapendo più dove andare a sbattere la testa si mette nelle mani dei tagliagole. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Allora Roberto, prima di farti reintervenire, poi ci sono, c'è anche un messaggio che volevo leggere di un ufficiale giudiziario che voleva raccontarci quello che vede incontrando persone in difficoltà. Gianluca da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. È un'esperienza personale per il lavoro che faccio in un'azienda multinazionale qui a Bologna, con numerosi dipendenti, vedo diverse pratiche di finanziamento delle persone, che riguardano le persone. Posso, quello che mi fa veramente, questa mattina ho acceso la radio in ritardo, però vedo delle pratiche con dei tassi ben oltre il tasso di usura. Sì. Cioè, tassi che superano, credo di aver capito, il tasso di usura è intorno al 14,5. No, il tasso di usura è più alto a seconda della tipologia, possiamo andare dal 21 per il credito bancario fino a circa il 23% per la cessione del quinto sotto i 5.000 euro, o il 16%, attorno al 16%, ecco, per la cessione del quinto. Sì, scusi. No, prego Gianluca. Prego. Ecco, le finanziarie per prestiti per automobili, cose di questo tipo, che tasso massimo hanno? Dipende, se il credito rateale e la somma è sotto i 5.000 euro, il tasso, diciamo, medio di sistema era il 15,75 nel primo trimestre. Se la somma era sopra i 5.000 euro, credito rateale e revolving, questo è un altro capitolo, le carte di credito, sì, revolving, il 9,70. Niente, io volevo semplicemente comunque dire che vedo dei finanziamenti a dei tassi al 18, 19, a volte anche al 20. Siamo ai limiti della soglia di usura, dipende dalla tipologia. Ma si viaggia sempre al limite per pochissime, per una percentuale contenutissima, Gianluca. Sì, ecco, forse una cosa che bisognerebbe ricordare a tutti coloro che ci ascoltano è che la prima regola è la gestione dell'indebitamento, cioè sarebbe molto saggio tornare a una gestione delle proprie finanze personali nelle quali l'indebitamento venisse vissuto, non dico come risorsa di ultima istanza, ma come canale da utilizzare in situazioni di effettivo bisogno. Cioè, se per comprare un cellulare e cambiarlo ogni 6 mesi mi devo indebitare a tassi che variano attorno al 10%, io credo che siamo in una logica che non può essere sostenibile, specialmente in un periodo di difficoltà economica. Allora, ritorniamo al nostro seminato, al tema dei prestiti, dei finanziamenti. Stavamo ragionando sulle condizioni di difficoltà nelle quali le famiglie si trovano, e spesso questo è ovviamente la motivazione che porta a chiedere un prestito, anche se poi negli ultimi anni abbiamo visto anche altro: prestiti per andare in vacanza, prestiti per soddisfare magari delle esigenze non proprio dirompenti, impellenti, e oggi ci troviamo invece a parlare forse di famiglie che sono un po' più in difficoltà, perché noi siamo partiti dalla cessione del quinto dello stipendio, che è mediamente, come dire, forse l'ultima istanza, no, alla quale si vorrebbe ricorrere, però avendo come intermediario l'azienda, forse a volte si riesce un po' più facilmente ad ottenere un prestito attraverso il canale della cessione del quinto. Comunque, detto questo, volevo anche dare lettura di qualche messaggio. Sono un ufficiale giudiziario, ci scrive Stefano, alcune finanziarie richiedono tramite noi la notifica del contratto di cessione del quinto al datore di lavoro. Il tasso base varia dal 5 all'8%, ma quando vai a vedere il TAEG si sale al 15-20. Ne ho visto uno di oltre il 25% per commissioni banca finanziaria e quant'altro. Roberto Anedda, da dove riprendiamo la nostra chiacchierata? Anche questo messaggio richiama quello che più volte abbiamo detto in trasmissione. Qua bisogna stare molto attenti ai tassi, a tutte le diverse condizioni, e come abbiamo visto anche i tassi ufficiali, cioè quelli effettivamente applicati in questi ultimi anni nel settore bancario per questo tipo di finanziamenti, ad andar bene è andato dal 10 al 12%. Tra l'altro, noi con l'aiuto di alcune analisi di AssoloCosta abbiamo preso proprio la media di questi diversi tassi dei prestiti applicati in Italia e l'abbiamo confrontata con quelli che erano i migliori tassi applicabili sui prestiti personali tramite ad esempio il canale dell'online. E qui le differenze sono fortissime, perché rispetto a una media tra il 10 e il 12% sul mercato, i migliori tassi per ad esempio l'acquisto di un'auto, che rappresenta oltre il 30% dei finanziamenti che vengono concessi in Italia annualmente, costava poco più del 6%. Mm-hmm. Questo vuol dire che anche per un prestito di durata piccola, intorno ai 4-5 anni, si pagano meno di 3.000 euro di interessi invece che 4 o 5 mila. Se poi la durata è superiore, a quel punto andiamo a risparmi di anche 3-4 mila euro. Si diluisce. Purtroppo chi si rivolge al mercato dei prestiti troppo spesso punta unicamente a quello che è la rata sostenibile e quindi magari si allunga eccessivamente la durata senza contare intanto soddisfare come risolvere immediatamente il problema, soddisfare l'esigenza immediata, esatto, dopodiché si guardano gli altri aspetti, purtroppo in un momento secondario. Ogni anno c'è sempre chi è in difficoltà e non riesce a ottenere credito, ma fortunatamente, tra virgolette, a livello di sistema è sempre una percentuale limitata. Il grosso dei finanziamenti fortunatamente va a buon fine, nel senso viene ripagato senza problemi, le famiglie semplicemente ricorrono ai finanziamenti per comodità o comunque per non dover tirar fuori i soldi tutti in una volta. Ma siccome il 75% dei finanziamenti sono concessi o appunto per un acquisto di un veicolo, ad esempio per la ristrutturazione della casa o l'arredamento, che sono tutte spese corpose di anche di diverse decine di migliaia di euro, scegliere in maniera adeguata per evitare di sobbarcarsi spese anche solo di interessi passivi di vari punti percentuali in più è fondamentale, perché veramente si risparmia un sacco di soldi. Acquistando una macchina, con il risparmio ottenuto ci si paga la benzina per diversi anni. Infatti. Altre testimonianze di altri amici che ci seguono da casa. Maurizio da Padova, benvenuto tra noi. Buongiorno. Buongiorno Maurizio. Io volevo chiederle, sono stato in una concessionaria e ho concordato un prestito per l'acquisto della macchina, sì. E si era parlato del tag di un 6 e qualcosa, poi io ho fatto un po' i conti a casa, sì. E mi sono accorto che il tasso non era quello. Bravo, era Maurizio. Molto più alto, sì. quanto più alto? Maurizio, quanto più alto? Quanto più alto? Io avevo calcolato così, senza andare a fondo, di più del 10%. E comunque quello che io volevo sapere è il contratto che io ho firmato per si può rinunciare a questo contratto? Quindi lei magari vorrebbe estinguere il prestito se fosse nella condizione di poter ripagare tutta l'auto, estinguere il finanziamento, no, che cosa vuol fare? L'acquisto che io ho concordato, l'acquisto della macchina, sì. Con il prestito non mi va bene più il prestito. Posso rinunciare all'acquisto, al contratto che ho firmato? Quindi proprio all'acquisto dell'auto? Dell'acquisto dell'auto. Io ho letto sotto nelle condizioni che non si può rinunciare perché io ho firmato nella filiale. Allora Maurizio, sentiamo un po' adesso un attimo quali suggerimenti le possiamo dare. Allora, in primo luogo partiamo dal dato di fatto, ovviamente rispetto alla condizione che Maurizio pensava di aver sottoscritto, scopre che invece è molto più onerosa. Siamo nel mondo della pratica commerciale scorretta, Nicola Borzi? Ovviamente sì, però innanzitutto consiglierei a Maurizio di verificare attraverso un consulente finanziario o un sistema di calcolo come quello che c'è sul sito di Assofin, www.assofin.it, se effettivamente il tag che lui ha calcolato corrisponde al tag reale del contratto. Se ci sono delle difformità alte tra il tag indicato nel suo contratto e il tag che lui ha calcolato, secondo me può rivolgersi a un legale. Però bisogna considerare che questo comporta tempi, oneri e tutta una serie di problemi. Cioè, se il tag che comunque gli viene fatto pagare è sotto la soglia di usura, riuscire a risolvere il contratto diventerà un'impresa, non dico impossibile, ma sicuramente lunga, visti i tempi della giustizia civile in Italia, e anche costosa. Purtroppo il problema è questo. Se all'interno del contratto fosse indicata la possibilità di saldare una maxi rata finale, eventualmente la strada percorribile potrebbe essere quella. Però anche quella non è scevra da oneri, perché ovviamente... Roberto, sì, perché o se rientra nei primi 15 giorni di cui faceva riferimento prima Nicola, altrimenti se è passato del tempo, uno bisogna vedere poi nel contratto cosa c'è scritto, perché se addirittura nel contratto è scritto un determinato tag e poi il calcolo effettivo che viene fuori è un altro, allora ci potrebbero essere dei margini per poter superiori fare, altrimenti se, come purtroppo spesso succede, il concessionario di turno ha dichiarato un tag giocando sui termini, tag, no, in realtà volevo dire tasso, perché i giochini sono questi, no? Il tasso di interesse è uno, poi il tag chissà perché, ma d'altronde viene fuori che te lo diverso. Chiamino ovviamente tasso. Comunque bisogna ricordare che il tag deve essere obbligatoriamente indicato su tutte le comunicazioni, sul contratto, cioè non può esistere un contratto dove non sia indicato il tag. Esatto. E tag è l'unica voce di costo che il cliente deve considerare. Tutti gli altri tassi, tasso nominale, tasso effettivo globale, comunque siano indicati, interesse, tasso, non contano nulla. Bisogna guardare solo il tag. Piacerebbe capire come Maurizio è riuscito ad arrivare a stabilire che la concessionaria e il prestito che aveva intermediato aveva fissato un tag al 5-6%. Questa è la percentuale che vedo, me l'hanno riscritta le mie ragazze del centralino, e poi lui ha addirittura conteggiato un 10%. Maurizio, se non vuole imbarcarsi nella strada del mondo legale o quant'altro, magari facciamo una cosa: se ha tempo, scriva a noi di Salvadanaio, salvadanaio@radio24.it. Faccio dare un'occhiata a Roberto Nedda, ma anche a Nicola, a questa pratica un po' più dettagliata, così riusciamo a capire cosa è realmente successo e se ha dei margini per poter interrompere questo rapporto e tirarsi indietro. Io non riesco a sentire Michele da Torino e Franco da Bergamo, ma sapete bene che questo è un tema intorno al quale indaghiamo spesso e volentieri. Se volete avere qualche risposta in più rispetto al vostro caso, domani c'è la lunga inchiesta di Plus 24 del Sole 24 Ore. Sicuramente su Prestiti Online anche troviamo tutte le indicazioni che ci servono per sottoscrivere un contratto di finanziamento e di prestito nella maniera più consapevole possibile. Abbiamo anche dei parametri per poter individuare i costi ragionevoli che dobbiamo pagare per queste forme di indebitamento. Io ringrazio molto Nicola Borzi e Roberto Nedda per essere stati con noi. Grazie anche a tutti voi ascoltatori, e ci risentiamo lunedì come sempre. Buon fine settimana a tutti.